America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Le cornamuse, oggi è la giornata del voto in Scozia, sì o no? E devo dire che questo timore che possano vincere i sì, si è diffuso anche negli Stati Uniti, è stata una manifestazione, varie manifestazioni, perché ci sono una gran quantità di scozzesi americani che hanno un grande senso delle radici, si identificano con la Scozia e sono favorevoli invece all'unità, insomma loro hanno il senso della federazione, sono americani che hanno manifestato, tra virgolette, perché la Scozia continui a far parte del Regno Unito. Ecco, ci sono due aspetti che hanno molto colpito gli americani di questo voto, uno è di tipo politico e l'altro è di tipo economico. E quello politico magari lo vedremo dopo, ma vi do un accenno. Insomma, è una secessione, è il tentativo di una secessione che però avviene in modo assolutamente civile attraverso degli accordi, è stato preparato questo referendum nel corso di 2 anni e la domanda è: ma allora perché in Ucraina ci vogliono i carri armati? E dunque, ecco, c'è un messaggio molto forte di grande civiltà del modo in cui questo referendum, al di là del risultato, è stato gestito e ripropone di nuovo una risposta, tra virgolette, civile a tutta una serie di tensioni internazionali. L'altra è invece una preoccupazione di tipo economico, naturalmente. E il presidente degli Stati Uniti è intervenuto lui stesso. E proprio ieri sera ha mandato in giro un Twitter in cui ha detto: il Regno Unito è un partner straordinario per l'America e una forza del bene in un mondo instabile. Spero che rimanga forte, robusta e unita. E dunque Barack Obama non poteva essere più chiaro, perché c'è l'aspetto appunto delle alleanze, ma cosa succederà del seggio delle Nazioni Unite e così via, problemi che riguardano l'America. C'è anche la questione economica, perché, cosa succederà alle finanze del neogoverno scozzese? Ci sarà un accesso ai mercati, il futuro delle banche, il credito, la moneta, la sterlina che si è indebolita, ci saranno dei contraccolpi. E dunque, forse anche per questo, alla fine, ieri un personaggio molto importante per l'economia americana, Janet Yellen, il governatore della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, ha deciso di lasciare le cose completamente invariate. Sentiamo la Yellen. Regarding interest rates, the committee reaffirmed its forward guidance that it likely will be appropriate to maintain the current target range for the federal funds rate for a considerable time after the asset purchase program ends. Eccola, Janet Yellen, dice: per ciò che riguarda i tassi di interesse, il comitato monetario conferma le direttive, cioè considera appropriato mantenere i tassi di interesse nell'attuale forbice tra lo 0 e lo 0,25% per un periodo di tempo considerevole. Ecco, questo è il punto chiave, per un periodo di tempo considerevole dopo la conclusione del piano di acquisto dei bond. Ecco, gli analisti erano ossessionati da questa frase: resterà per un periodo di tempo considerevole dopo la conclusione del piano di acquisto o no? E se non ci fosse stato, significava che forse la Fed si preparava, a stringere prima, e questo avrebbe aggiunto turbolenze a quelle preoccupazioni che ci sono sul mercato per questo possibile voto di secessione della Scozia dal Regno Unito. Io, tra l'altro, se devo esprimere un voto, voto per il no, che il Regno Unito resti unito, e non soltanto per questioni economiche, ma anche per questioni ideali. Comunque sicuramente di questo ne hanno parlato nel comitato monetario. Le reazioni del mercato sono state positive, la borsa è andata in moderato rialzo, i rendimenti sui buoni del tesoro americani decennali sono leggermente salite, e c'è un altro aspetto di cui ci ha parlato ieri la Fed: le previsioni economiche. Economia americana in ribasso Nel 2014 le stime sono state corrette tra il 2 e il 2,2%, meno del 2,1-2,3% stimato prima. Nel 2015 il PIL dovrebbe crescere del 2,6-3% contro il 3,3-2% stimato in giugno, e così via, così via. Ma come vi dicevo, attorno a questo referendum si era sviluppato anche il messaggio politico di cui ci aveva già parlato Obama, in un contesto di grande turbolenza. Sentiamo l'intervento di ieri del presidente americano. As your commander in chief, I will not commit you and the rest of our armed forces to fighting another ground war in Iraq. Ecco, Obama ha parlato di guerra in questo caso. Ovviamente la Scozia non c'entrava nulla ieri mattina, quando è passato al comando centrale a Tampa, in Florida, da dove si guidano le operazioni in Medio Oriente. Ha detto, come comandante supremo, non impegnerò le forze americane in una nuova guerra sul campo in Iraq. Dopo un decennio di spiegamenti massicci, è molto più efficace essere di sostegno ai nostri partner con degli attacchi aerei. Ecco, una dichiarazione importante, perché è in contraddizione con quello che aveva detto il generale Dempsey, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate americane, il quale aveva anticipato che non si poteva escludere nulla e forse a un certo punto delle forze speciali potevano intervenire. In realtà Obama non contraddice Dempsey, per ora si fa così. Dopodiché si vedrà che cosa succede. Il contesto d'insieme qual è? Beh, è un contesto d'insieme politico, perché presto l'America avrà delle elezioni. Obama non andava troppo bene e ora che così mostra il piglio del commander in chief, beh, diciamo che le prospettive del Partito Democratico di mantenere qualche seggio al Senato sono aumentate. Il rischio resta però molto forte per Obama, quello cioè che la maggioranza del Senato passi ai repubblicani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bruce Springsteen suonerà il 5 novembre al Madison Square Garden, benefit annuale Stand Up for Heroes. Raccoglie fondi per i veterani feriti in servizio e per le loro famiglie. Dunque, nel momento in cui l'America torna in guerra, una canzone patriottica ci vuole. Di Bruce Springsteen, Born in the USA. Born down in a dead man's town. The first kick that took us when I hit the ground. End up like a dog that's been beat too much till you spend half your life just covering up now. Born in the USA. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!